Oggi piove in Occidente, giù dal cielo si scatena una pioggia martellante di coltelli nella schiena. Ogni tanto una schiarita sembra dirti che è finita, ma le vipere e i briganti sono in fondo sempre tanti. Uomini di cenere partoriscono fumogeni, paraocchi inconfondibili dietro occhiali immobili. Oggi sembra un paradiso, ma l'inferno è in ogni viso. Squadre d'angeli fasulli teleguidano cammelli. Chi ha orecchie non ci sente e chi vede non capisce che il momento è arrivato di giocare le proprie fiche. Falsi preti delinquenti stanno allerta su chi vive. Tanti chiedono tangenti a chi muove un poco i denti. Farabutti d'avanguardia starnutiscono rumori. Quando il vento cambia rotta, loro cambiano gli umori. La televisione annuncia: qui bisognerà cambiare, gridava l'unno al visigoto, mentre il barbaro sta a guardare. Brucerà, brucerà, come scaglie di velluto di serpente. Brucerà, brucerà, brucerà, come un incubo impotente il vostro sogno. Brucerà. Sanguisughe, pesce, cani non si sporcano le mani. Per loro l'ultimo dei dollari ha un'anima e un domani. Vigilesse vigilanti fanno i Rambo, fanno i conti. Multe trattano i cantanti come ladri di bisonti. Illuminati giornalisti si attanagliano sui testi. Cani sciolti certi versi, è più dura per gli onesti. Favolosi gli aeroplani quando sono ancora sani. Quando spariscono la notte, nessuna ustica ha risposte. Parolieri da strapazzo alzano i loro bicchieri per un chiodo, un ritornello, sempre fisso, sempre quello. Tutto è già stato detto, ma non al momento giusto. Tutto è già stato fatto, già venduto, già distrutto. Io non so per quanto tempo questo mondo sarà il tempio degli ipocriti sciacalli, burocratici imbecilli. Una cosa so di certo: quando le trombe suoneranno, neanche i porci di Gerasa, neanche loro vi vorranno. Brucerà, brucerà, come scaglie di velluto di serpente. Brucerà, brucerà, brucerà, come un incubo impotente al vostro sogno. Brucerà.